Voci di piccola impresa. Storie di eroi italiani di Anna Marino. Benvenuti a Voci di piccola impresa, storie di eroi italiani, design italiano in crescita. Queste storie dimostrano come non conosce sosta, in particolare nel settore dell'arredamento, lo stile del nostro paese, elemento essenziale per espandersi all'estero e per le industrie piccole e medie nostrane. La Slide è infatti una realtà 100% made in Italy, costituita nel 2002. Produce oggetti di design luminosi in polietile. In soli 5 anni di attività, il fatturato è passato da 2 milioni e 500 mila euro nel 2004 a 9 milioni di euro nel 2008 ed è prevista un'ulteriore crescita con obiettivo di superare entro il 2010 15 milioni di fatturato. Nel primo trimestre del 2010 ha aumentato i fatturati del 30%, circa il 70% della produzione è venduta all'estero in 90 paesi. La luce è l'inizio del suo successo. Slide è stata infatti la prima azienda al mondo a realizzare una gamma completa di mobili luminosi. Giuseppe Colonna Romano racconta anche come Slide è stata presente nell'ultimo film di 007. Avevo iniziato con dei prodotti nel settore dei casalinghi e i prodotti erano sempre in plastica. Dopo una crescita di alcuni anni le vendite avevano iniziato a decrescere. Nel frattempo, fortunatamente, avevo incominciato a studiare e a produrre una nuova linea di vasi per il settore giardinaggio, che sono diventati il fulcro della nuova società che nel frattempo avevo costituito. E nel frattempo avevo già incominciato a creare i nuovi prodotti, le prime lampade decorative che fanno parte dell'attuale produzione. Questi prodotti a suo tempo, che hanno iniziato a uscire con il marchio Sigre, che è una società che a quei tempi avevo, hanno dato degli ottimi segnali di sviluppo e hanno permesso di creare la Slide. Quindi il percorso è stato un percorso certo di crescita, però non è arrivato all'improvviso. No, i prodotti precedenti non hanno superato il click di crescita turbolenta che ho avuto invece con i prodotti della Slide. Perché è arrivato la turbolenza con la Slide? Perché ho trovato una nicchia di mercato dove sono riuscito a creare dei nuovi prodotti molto interessanti che non esistevano. Abbiamo inventato i mobili luminosi che ci fanno crescere praticamente il fatturato di circa il 30% ogni anno. Siamo stati i primi e oggi esportiamo il 75% della produzione in tutto il mondo in circa 90 paesi. Siamo diventati leader in questo settore. Da un momento di crescita normale, tranquilla, a un momento di esplosione, che cos'è che vi ha aiutato a fare questo bel salto? La perseveranza, la serietà, tutte le qualità che sono indispensabili per avere successo, secondo me. È sempre molto difficile in Italia creare delle aziende dal nulla, soprattutto oggi che c'è una concorrenza incredibile. Però illuminazione e arredamento, spinta nel design, è un settore che ha avuto un grosso sviluppo. Battute d'arresto per la crisi? No, perché anche l'anno scorso, che c'è stata una crisi generalizzata, siamo riusciti a crescere del 15%, quindi sicuramente controtendenza. Chi pensa alle nuove forme e alle nuove luci? Collaboriamo con tanti designer di fama internazionale, collaboriamo con Marcel Vanders, Karim Rashid, Paola Navone, Giulio Cappellini e tanti altri più giovani. Ormai abbiamo una cinquantina di designer che collaborano, ci presentano prodotti che sono stati accettati da noi e che fanno parte della normale produzione. I primi prodotti li ho creati io stesso. Come siete arrivati a James Bond? James Bond non è che soltanto una vendita fatta in questo settore alla società che doveva arredare gli spazi dove si doveva girare il film. Abbiamo clienti dappertutto che amano i nostri prodotti, preferiscono presentare in occasione di eventi eccetera un arredamento moderno caratterizzato dai nostri prodotti, quindi diciamo che quando vado in giro per il mondo trovo i miei prodotti un po' dappertutto, perché non so dove vanno a finire, invece andando in giro per ristoranti, bar, alberghi eccetera trovo dappertutto ormai i prodotti Zuide, sono veramente orgoglioso di questo fatto. Siamo presenti in tanti alberghi famosi come il Burj Al Arab a Dubai, che è un albergo 7 stelle diventato famoso per il suo lusso, piuttosto che in giro per il mondo con installazioni molto, molto prestigiose. Abbiamo creato una società nel settore dei servizi, che è la Slide Events, con la quale abbiamo creato delle sinergie enormi per diffondere i prodotti, per comunicare i prodotti Slide in maniera non tradizionale. Ricorriamo molto poco alla pubblicità tradizionale, ma in compenso ci diamo molto da fare per creare eventi prestigiosi. Abbiamo come clienti la Campari, la Veuve Clicquot e Laurent Perrier. Ecco, lei si sente un eroe italiano? Beh, non mi sento un imprenditore che dà un contributo all'Italia per crescere, esportare. Oggi diamo da lavorare a 85 persone. Quindi mi sento, sono fiero del fatto che sono riuscito a creare un gruppo di società che operano con successo in tutto il mondo. Intrecciare la vita personale con quella imprenditoriale è difficile? Beh, ci vuole molta dedizione al lavoro, si lavora in ufficio 8-10 ore e poi fuori dall'ufficio ancora per tanto tempo. Non ci si può godere tanto la Sicilia? Questo sicuramente no, ho tentato di fare uno stabilimento in Sicilia, ma le difficoltà erano troppo grandi, quindi ho preferito svilupparmi al nord. Design chiama in mano a portata di tutte le imprese Bruno Fattorini & Partners, fondata da Bruno Fattorini nel 2009, già proprietario e art director di MDF Italia, rappresenta oggi una delle realtà più innovative nel panorama dell'industrial design italiano, con la particolarità di mettere al servizio di altre imprese la propria creatività. All'età di 70 anni, grazie ad una straordinaria energia e carica creativa, Bruno Fattorini si reinventa un'attività avviando in partnership con Robin Rizzini, industrial e visual designer classe 73, uno studio di industrial design e comunicazione visual che per investimenti e obiettivi ha le caratteristiche di una piccola e media impresa più che di uno studio professionale, per quelli che sono gli standard del panorama italiano. Ecco come Robin Rizzini racconta gli inizi. È nato dalla voglia di uno dei due soci della Bruno Fattorini & Partners, che è appunto Bruno Fattorini, dopo aver venduto la sua azienda MDF Italia, che produceva e produce ancora oggi mobili per il settore del design, ha deciso lui di rimettersi ancora in gioco, in questo caso come progettista, non più come produttore, no? E io e Bruno Fattorini collaboravamo già insieme io come designer dell'azienda e lui come imprenditore. Abbiamo deciso, quando lui ha venduto l'azienda, di fondere queste due esperienze diverse ma complementari, a dare inizio a questa nuova attività, che ha delle caratteristiche sicuramente innovative rispetto al classico studio di design che progetta. È uno studio che si avvicina molto all'impresa da un certo punto di vista, perché noi progettiamo ma sviluppiamo le idee fino in fondo e proponiamo poi alle aziende queste idee perfettamente sviluppate, sia tecnicamente che come prototipo funzionale e funzionante, con tutte le analisi di costo e di mercato che sono dietro un prodotto. Per arrivare a mettere in piedi questa azienda avete dovuto faticare, soprattutto è nata in un momento in cui c'era da scommettere contro la crisi. Diciamo che la crisi, come spesso si dice, è un momento da un certo punto di vista positivo, nel senso che è un momento di riflessione, un momento in cui ci si focalizza su quelli che sono gli aspetti prioritari, e anche dal punto di vista degli studi di progettazione questo è un processo inevitabile, nel senso che comunque ci si focalizza su dei progetti che siano più concreti e più in linea con quello che è l'andamento economico non solo del paese, ma del mondo anche, perché purtroppo il bacino di utenza dei progetti nostri, ma dell'arredamento anche di design italiano, è chiaramente il mondo, non è soltanto l'Italia. Come è stato attraversarla? E c'è stato un momento in cui avete avuto dei problemi, adesso va meglio? No, in realtà no, diciamo che da questo punto di vista siamo stati abbastanza fortunati, bravi secondo noi e bravi e fortunati, nel senso che abbiamo come interlocutori, abbiamo delle aziende che guardano oltre e che comunque hanno dei valori anche storici molto forti e non possono permettersi di chiudersi, ma devono cercare di comunque investire e cercare di superare questo momento in maniera brillante. Ne hanno gli strumenti molto spesso, quindi diciamo che è importante non mollare, è importante rimanere sempre focalizzati sui progetti giusti e sulle anche visioni di mercato corrette. Quali sono i progetti, qualche esempio, cui avete messo mano? Cos'è che avete inventato? Più che inventando, stiamo sperimentando molto su materiali che non sono propriamente utilizzati nel design, tradizionalmente nel disegno del mobile, ma che diciamo migrano da altri ambiti come quello automobilistico, aeronautico. Per esempio parliamo di fibre di carbonio, ecco, per citarne uno. La fibra di carbonio è un materiale che diciamo, ha sempre sfiorato un po' il mondo del design. Stiamo cercando di portarlo dentro in maniera più razionale e cercando di inserirlo in progetti che devono avere un costo comunque giusto, ecco. Quali oggetti costruite? Noi in questo momento ci stiamo concentrando molto sui tavoli e sulle sedute e sui sistemi a parete, quindi sui contenitori. Diciamo che sono i tre progetti che generalmente sono quelli a cui le persone diciamo, danno più attenzione, insomma, a parte la cucina, diciamo che la parte poi i tre poli progettuali che sono più spesso sotto la lente di ingrandimento del pubblico. Le aziende hanno bisogno di innovazione, voi gliela fornite come un pacchetto completo? Noi gliela forniamo come pacchetto completo, gliela forniamo come proposta prima di tutto, poi gliela forniamo chiaramente come pacchetto completo, oltre anche alla comunicazione, perché noi all'interno della nostra attività ci occupiamo del prodotto, ma ci occupiamo anche della comunicazione, per cui della fotografia virtuale, ci occupiamo di cataloghi, ci occupiamo anche di creare proprio lo spirito del prodotto a 360 gradi. Per quanto riguarda la sua impresa, sua e quella del suo socio, vi sentite degli eroi oppure nascere in un momento di crisi mondiale è stato anche una fortuna? Ci sentiamo sicuramente delle persone che tendono e che vogliono fare bene il proprio lavoro, cercano di essere utili alle imprese, cercano di essere dei consulenti affidabili e professionali, ecco, questo sicuramente. Le vostre idee vanno a buon fine? Le nostre idee vanno a buon fine perché diciamo, le sviluppiamo internamente e quindi cerchiamo di ridurre al minimo i rischi, i cosiddetti rischi di impresa. Noi cerchiamo di sviluppiamo internamente le idee, le razionalizziamo il più possibile già all'interno, per cui ci presentiamo all'azienda già con un prodotto risolto, ecco, quindi che arriva in fondo. Poi diciamo, quello che succede dopo lo decide l'azienda, ecco, da questo punto Quindi un di vista. prodotto chiave in mano. È un prodotto chiave in mano. Voci di piccola impresa, storie di eroi italiani, per oggi si chiude qui. Tutte le puntate sono disponibili su internet www.radio24.it. Appuntamento al prossimo sabato con nuove storie e nuovi eroi. Un saluto da Anna Marino.